Siamo qui, qui ancora ora, mezzanotte affaticata. Immagina te a tutta buchi, credi di te, pensi che non sono difficili, li apro anche di pensieri. Tutto bello, stanco, di nasce, testa confusa, libri che non si fanno più sentire, sguardo a ferire. Stavo lì, compagno, un uomo in sogno, quando finisci, fumo di chiacchiere, sul soffitto di pietra retta, modi fetici, che possono resuscitare in ogni solitudine, gioia, ne si la gente inutile. Quell'uomo che per sentirti sta nella folla, ma la gente non ricorda. Ma più mi colonne di mattoni, lui sono come un cane. Perché cane, che cane sono? L'uomo della folla. E se fossi io, ti dico che non sei una. Forzato, chi senti, guarda intorno a ricerca di qualcosa, non importa cosa, vedo la tua faccia e mi sembra la ricerca di una scusa, una qualunque, per nascondere ogni evidenza e l'incoerenza, intorno alla gente maligna di cui senti la mancanza, cosciente di dover essere tu a muovere il primo passo, capisci, sai quale deve essere la prossima mossa ma non reagisci, i tuoi movimenti si trovano rallentati, causa della mala abitudine, di non trovarti più gente intorno, solo tu, abbastanza solitudine, tu unica compagna nei giochi di bimbo, quell'amore solo, ridotto a un cubo di cielo, con lo sguardo incrociato al volo, nel tuo vagare sempre influenza, scivolante addosso come il vento, quanto di efficiente da aspirare, chiudere, conservare, attento, ed ogni gesto da assimilare, su chi cammini e su chi è senso, per tue vite contarci la proiezione, nascosta da nonne movenze, gli amici e sorrisi mai, niente mai, sembrano come tutti gli altri che vieni intorno, passare, vai, continui a camminare a fianco senza mai sfiorarli, ma io ti vedo, una tua vita stessa, ma la prendiamo diversamente, credo. Invitati da un tot di miliardi, bene uguale miliardi di altri sconvolti dalla fuga di secondi, pubblicità, da cartelloni più dei riti, ritratti di troppi Dorian, a metà strusci tempo contratti, tagli sorprese nel traffico incessante, nella tarda ora astratti, scovellai le senza terminio mentre altri, distrutto tutto di curvo nel suggere testa, disperazione, esattezza di un errore, un occhio mio cento di persone repiescano in bar come vetrine, me ne sto a mangiare il pistole dei cornetti, a contornar col dito le improde sui bicchieri dei rossetti, a sedare di cui dirla che ha bisogno di cassere, rotti, o febbre di imbattermi col prostituirmi, l'inquisitirata reclusione, il volto di 70 anni come fosse uno per tagli 3D e quarta dimensione carneve, che era costruito uno zero perfetto, anziché aggettivo, anziché non tagliato, uno zero spaccato, dal dentro notato, anche se appannato, 15 anni puttane, tipico ancora appaltato, pacifisti per sentire di una bandiera, rubare un'inerzione, frati che impartiscono la maledizione, che la viltà è sottracutante, sino alla gagliosteria, tuttavia sofferenza psicofisica nell'abbandono, ostentano la massima rispettabilità, l'appagamento di facciata, ma più della disperazione accumulata, la canicine plumbia della velatura degli occhi, le vostre tutte screpolata, specchio di tenere le loro vista, faccia ben presa la routine degli umani nevicati, in superficie come marmi dentro gonfiti su un fiume, non c'è più la corrente perché nel sole fiume, adesso alzo il bavero della giacca e mi reimmergo nel pesto, sarò laddove un derelitto nel suo sangue, la tua sorriso deploro bambini esco a freddo il passo, perché il tempo è onesto, non mi aspetta l'eternità uguale al presto, perché la meridiana del mio ego è rotta e senza ore con un piatto al loro posto.